sui criteri con i quali i grandi maestri reclutano i propri allievi ci sarebbe da riflettere. Si pensi ad esempio al modello del Pigmalione, no? Nella forma classica, quella ricordata da Ovidio nelle Metamorfosi, Pigmalione è uno scultore cipriota che si innamora di una propria statua, Galatea, e se ne innamora tanto da infonderle la vita, non senza, vabbè, la complicità di Afrodite, che a queste cose ci stava sempre. Nella forma a noi più nota, conferitale da George Bernard Shaw con la commedia omonima rappresentata a Londra l'11 aprile del 1914, Pigmalione è un ricco ed eccentrico signore dilettante di fonetica, tal Higgins. Per cercarsi allievi in cui infondere la sua dottrina si guarda bene dall'andare, che so, all'uscita delle università o ad ascoltare i pubblici dibattiti alla Casa della Cultura locale. No, va invece per la strada e si sceglie una fioraia ambulante, la signorina Eliza Doolittle, che alle gioie della fonetica non aveva mai pensato. Sul piatto della bilancia ci mette il salto di classe sociale e la povera bambina non sa dire di no. La vita del filosofo Pitagora ci viene tramandata dai 5 libri rimastici sui 10 scritti da Giamblico. In essa, per fare un altro esempio, ci viene detto come Pitagora, che era vissuto fra il più o meno 572 e il 497 avanti Cristo, ci viene detto come Pitagora scelse il suo primo allievo. Lo scelse dopo un buon lasso di tempo, peraltro, in cui a Samo a nessuno era passato nemmeno per la capa di ascoltarne il dotto insegnamento. Allora, non sapendo come far passare la giornata, Pitagora se ne andava al ginnasio a vedere i giovani giocare a palla. Un giorno ne vide uno che, non si sa bene in base a quale criterio, gli parve adatto. Prese informazioni e venne a sapere che era povero in canna. Perfetto, si disse Pitagora. Lo adescò all'uscita, gli disse che avrebbe provveduto alla sua educazione scientifica e in cambio l'avrebbe mantenuto. Anzi, lì per lì Pitagora inventò un metodo didattico estremamente efficace ancora oggi, seppur poco praticato. Ad ogni argomento della somma conoscenza che lui gli avrebbe snocciolato, gli sganciava anche 3 oboli. Lezione privata alla rovescia, insomma, in cui a pagare è il maestro. Inutile dire che il baldo giovinotto accettò con entusiasmo. Si chiamava Pitagora anche lui, peraltro, guarda il segno del destino, e lo seguì in giro per il mondo. Pare anche che a questo Pitagora, allievo di Pitagora, si debba la grande scoperta scientifica consistente nel sostituire bistecche ai fichi secchi nell'alimentazione degli atleti. Gli sportivi non vegetariani di tutto il mondo ancora oggi lo ringraziano. Anche nelle forme di reclutamento scelte da Gesù, la sostanza poi non cambia. Dai tre sinottici, ovvero nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, detti sinottici perché offrono uno sguardo d'insieme abbastanza coerente, veniamo a sapere che Gesù abborda alcuni pescatori neri come la pece, perché in tutta la notte non avevano pescato un accidente di niente. Sale sulla loro barca e li invita a tornare al largo ed a gettare le reti. Manco a dirlo, pesce a volontà per tutti, e una volta a terra, ecco l'invito ad andare con lui ed a diventare pescatori di uomini. Adesioni festose. La tecnica è sempre quella. Fra costoro c'era anche Pietro, che peraltro si chiamava Simone e che più tardi si distinguerà per fare l'indiano nel momento in cui il suo maestro rischia la pelle. Mentre Gesù è sottoposto all'interrogatorio di Caifa, Pietro è riconosciuto come suo seguace, ma lui, pusillanimamente, nega 3 volte. Risuona il canto del gallo E Luca, rigirando il coltello nella piaga, dice che Gesù alzò lo sguardo e incrociò quello di Pietro, che piange di vergogna. Diciamo che il maestro si sia divertito a infierire, perché nella sua lungimiranza non poteva non sapere come stanno le cose. I maestri si scelgono allievi con qualche difetto, preferibilmente semideficienti, di certo timebondi, un po' vili, pronti a sputare nel piatto dove hanno mangiato e da cambiare bandiera ad ogni mutar di vento. E i casi sono due: o sta nella grandezza dei maestri l'osare l'inosabile e scegliersi il compito più arduo, ovvero tentare di emendare l'inemendabile, o sta all'opposto nella consapevole pochezza dei medesimi non rischiare mai lo spodestamento, mai sceglierne uno all'altezza di poterne mettere in dubbio la grandezza. E tuttavia, una volta acquisiti prestigio sociale e presumibilmente la lira, non c'è allievo che non tradisca il maestro. Una visione meno deterministica della vita ci direbbe forse che l'accoppiamento di maestro e allievo non dipende dalla volontà di nessuno dei due. Gira e rigira finiscono assieme perché l'uno ha bisogno di allievi e l'altro ha bisogno di maestri, ma le funzioni come le capacità cambiano. Nessuno ha tanto da dire da rimanere maestro tutta la vita e nessuno ha tanto da imparare da rimanere allievo tutta la vita. Jean Paul diceva che nell'incontro di due persone ciascuno è sole e gira sole. È vero, ma è anche vero che qualcuno può essere sole per un certo tempo e nel momento in cui un altro è per l'appunto girasole. Da lì un'unione che non può che essere zoppa e provvisoria. La tradizione popolare, tuttavia, riserva ai maestri grande rispetto e agli allievi lazzi e cachinni. Sembrerebbe che un'idea sia davvero grande quando solo il suo creatore può davvero rappresentarla appieno. I seguaci sono stolidi e inetti, vili e infidi. L'idea né l'han capita né conseguentemente sono pronti a difenderla. Nel suo recente saggio sulla saggezza, il mio amico Giuseppe Vaccarino racconta della fine ingloriosa riservata all'apostolo Pietro nella tradizione siciliana. Un giorno, padre maestro, dopo aver fatto la predica nella piazza, disse ai discepoli: «Ognuno di voi raccolga una pietra e saliamo su quel monte». Mentre gli altri prendevano una pietra a caso, senza fare calcoli, San Pietro, per non faticare, raccolse un sassolino. Giunti sul monte, padre maestro disse: «La pietra diventi pane, sedete e mangiate». Il miracolo avvenne subito e San Pietro restò digiuno. Il giorno dopo si ripetette la stessa storia, ma San Pietro si caricò sulle spalle una macina di mulino e con fatica, ansimando, seguì gli altri sulla vetta del monte. Allora padre maestro disse: «Sedete sulla pietra che avete portato e sentite una parabola». San Pietro, furibondo, bestemmiò fra sé e sé: «Ma la nova sempre con mia lavi».